Basta un poco di musica, basta una melodia, anima mia, tutto si salverà. L'amore è come un'elica che ci porta via ogni dolore, scomparirà. Un valzer prima di cena, un boston all'ora del tè, e un tango bella catena, nella notte per me e per te. Basta un poco di musica, basta una melodia, anima mia, tutto si salverà. Basta un poco di musica, basta una melodia, anima mia, tutto si salverà.